sud della Spagna si ascolti l'isola sacra, cambio. Buonasera, mi hermano. Ti scusi al 100%. Attento, mi hermano del sud della Spagna si ascolti il doppio rum che chiama. Molte sovrammodulazioni, dai, collega. Ti saluto, dai. Buonasera, mi hermano. Ula, ula, ula, ula, ula. Ascoltate l'isola sacra che chiama, cambio. Attenzione, canale 10, l'isola della Sardegna fa chiamata e si sintonizza l'ascolto. Ricco, ricco. Attenzione, canale 10, l'isola della Sardegna fa chiamata, ricover. Beh, Gianni. Poi, c'era un accanto sul 5. Un paio fuga dalla Francia, ecco, e poi però non mi sentiva, lo richiamo, non mi sentiva. Tacaticchi. Ah già, Tacaticchi. No, non c'era Tacaticchi, c'era Mario Baccaluzzo. Ah, già l'ho sentito. Siamo come a fare un po' di calare a girare. C'è, le ferme ci sono. I tedeschi. Quelli sempre, tedeschi, spagnoli, tutto, anche in banda laterale. Vabbè, ma a volte ti gira, a me non mi piace la banda laterale, perché non è chiara, ma sempre tipo troppo grigiata la voce. No, già è bella anche in banda, già spinge. Sì, spinge di più. Ascolta Daniele, sta arrivando di radio, come sta arrivando? Chiaro oppure sono sacco? No, già, un po' così è. Ma c'è qualcosa, qualche vento a fianco a te c'è, qualche cosa. Sì, dal vento la roba non ci fa il caso che l'ha alimentata. No, a parte quello, la radio è chiara o sacco? Satra no, ha compresa appena sì già. Ma poco è, già è buona. Guarda così. Ora, è tre poco. Sa che ha migliorato appena già. Ha migliorato, ho peggiorato. No, ma non mi dà niente, non c'è problema. Se non mi registro me la fai ascoltare a me. Perché sto facendo una regolazione. Non ti ho capito, cosa hai detto già? Ho detto, se esce male, dimmelo, perché sto facendo una regolazione. Quello sì, ma non te lascio quantificare neanche confronto agli altri giorni, sei un po' diverso, capito? Più compresso oppure satura? No, satura no, compressa leggermente sì. E invece così, guarda, 1, 2, 3, adesso ti dà un giro di vite. Così sei nuovo tu già. Va bene, dai. Ho capito, io adesso provo piano piano a sollevare. E tu mi dici, sì, dove devo sollevare? Guarda, adesso provo, sei sempre chiara. Guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sempre chiara, aumenta. Controlla così, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vai un altro po'. Così, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sta iniziando. Quindi così dovrebbe essere a posto, così è. E si conferma. Puoi salire un altro po', prova, manda tutto già a vedere. Sta tutto così, mi hai detto che non va bene. Cava. Va bene. Ok, adesso ci siamo, la regolazione giusta è questa. E si conferma. Quindi, 8 watt e mezzo, dai, 8 watt e mezzo, va bene. Cava. Guarda, sto usando 2 o 3 e 25 di picchio. Già va bene, dai. Andiamo bene, adesso come tra poco ne ha fatto là. Quello da combattimento già. Ernia, anche quello lì vuole aumentare, ma io non so quale la bitte per aumentare il vano. Troppo basso il vano. Cos'è, un 48? quello, lo sa Antonello, e qual è? O anche Gigino Vulcano li sa. Perché io non me ne faccio nulla, esce con un vatto e mezzo. Un vatto e mezzo? Cacchio, lì ci può attaccare la segretaria. È regolato un vatto e mezzo, capito? Anche a due e mezzo lo puoi portare. E attaccare la segretaria. Sì, ma a due vatto e mezzo dovrebbe dare... Perché poi c'è i picchi di modulazione. Ci siamo. Questo è troppo basso, guarda, troppo basso. Gaba. Una scelta devi fare già, se non c'hai i fatti regolabili. Ma io non potrei accendere direttamente, tanto con 5 watt ce ne per i pulsi. Andavo. E se poi devi attaccare qualcosa? Ah, 5-10 d'entrata. Lo so. Perché anch'io se alzo questo, poi si mangia tutta la radio, si mangia. Ah, così. Sono regolati apposta così allora. Se ne dai 1-2, poi c'hai la radio bella che spinge coi picchi positivi. Capito? E non ti mangia niente. Eh sì, conferma, vendo, compro, scambio. Mi sa se così innesca, no, a posto, meno male. Ola. Guarda così, troppo forte, Gianni G. Guarda adesso, cambio. Cava di rosmetro. Va bene. Almeno così faccio sentire. Ehi, ok. Magari se ci sentiamo un po' male qualcuno entra qua. Stanno bene, Lucio. Sai cos'è? Che se io aumento di vado, mi dai picchi positivi, invece così qua non pago bene a negativi, a te come te li segni a negativi o positivi i picchi del mio apparato? Prova a fischiare già, perché così è stabile. È stabile già, non c'ha né picchi positivi né picchi negativi. Allora... è lo strumento, non lo so, a me me lo porta a negare. Vabbè, comunque, interessante che vada bene. E farlo andare in positivo. Per andare in positivo devo alzare e tu mi dici che la radio non è chiara. No, va, prova, che magari sono le orecchie mie, prova. Così per positivo, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, saranno in positivo adesso. Gava. Già va bene. E perché ti andavi negativo se lasciavi come prima? Cosa? Ho detto, perché eri negativo? Che ne so. Fino a me. Così va bene. Ma sei agganciato. Vediamo un po' chi ti ha mangiato. Dai, avanti chi ti ha mangiato. Se tocca a me non conosce un freddo. Io non sento nessuno già. E io sì. Ma tua antenna adesso quante anni? Come stai parlando già? E se mi sei solo tu con capo al vinto, quante anni l'antenna tua di altezza, quanto c'ha? La mia adesso è... vabbè, cioè sono le 5 ottavi, però è quasi un metro alta dal tetto. Ah, caro, va. Ma ci sono più di 10 metri di palo sotto. Cavagare. Spiega per una voce che mi sta dando fastidio una cosa. Vabbè, se gane tutto. Ah, sai cos'è? Si deve essere aperto. Hai visto quel gommino che si mette quando tu fai lo spinotto del microfono? Si mette quel gommino nero. Quello ride la macchina, si è aperto, c'è un pezzetto di un caffè del buco, capita un fastidio, c'è una ieri che lo sto guardando, mi sta dando un fastidio, spero che mi aiutate. Capo di Rosmetro, chi è che vuole entrare avanti? Andava, è un casino oggi che adesso basta. Ma chi ci guardava? Ola. Ancora, ancora, sempre 457, no? Vabbè, Luca, va, qua. No, c'era Luca, c'era Gianni, c'era Gigino e sono spariti tutti. C'è un bel propagazione, cioè, non lo so. No, io mi sono colpito e stavo facendo una relazione, ma ho quasi finito, dai. K di Rosmetro, va bene. E allora ne sono sceso qua, di nuovo al 10. E vabbè, ma bisogna stare sempre su 45, vabbè se c'è propagazione, ma io ho questa accesa, quanto ti aspetto, ho acceso un po' questa qua perché ti non fare andare, adesso già qualche giorno sto andando con 430 e va bene così. Cappa Rosmetro, va bene, va bene, almeno le fai girare tutte piano piano. E vabbè. Vabbè, dobbiamo farle girare, sì, se no poi si girano le balle queste radio, non camminano più. Poi si offendono. E si conferma. Aspetta che mi stampo questa roba. Bene, così tolgo la stampante perché la stampante la metto solo quando mi serve. E così poi posso fare un po' di radio, vai, dammi 10 minuti. Se dovete andare su 45 andate, io sono qua, comunque ascolto. Ehi, già sono qua io, già, qua. Di là non c'è più nessuno. Dai, fai tranquillo, già sono qua. I canali alti, però italiani niente, tutti lì fuori. Cazzo, oggi siamo in fase francese, cazzo, sono tutti francesi, dovunque giri sono tutti francesi. Ahia, un bel movimento oggi, discreti segnali, anche in FM. So, qua sul 10 c'è gente in FM e si sente che è sotto. Ahia. Si sente sotto il segnale del francese? Sì, adesso su 10 si sente gente in FM, sono andato a controllare, dovrebbe essere tedeschi se non sbaglio. No, dico sotto di me. No, negativo. Eia, c'era movimento sul 45 in AM anche, e un po' tutti i modi di emissione, AM, FM, bande laterali, ce n'è per tutti, è che bisogna sempre avere potenze, ovvi. Macello, troppo bordello, cazzo, mi sono messo su 52, cazzo, minchia, ho cambiato al volo perché mi stavo impazzendo, cioè non si riusciva a capire una mazza, gente, cazzo, da ogni dove chiamando, cazzo, poi stamattina c'era questo passo in preda a un delirio, cazzo, non so cosa cazzo diceva, diceva alcune parole in italiano e sotto c'era uno spagnolo che lo mandava a fanculo, che era un pazzo da ricovero, insomma, ne hanno detto tutti i colori. Ci vogliono i contributi dell'ASL anche lì. C'era questo qua che ogni tanto spiccicava qualche parola in italiano, questo pazzo furioso. E questo tizio sotto che si lamentava del fatto che c'era questo, cazzo, gli hanno detto tutti i colori, cabron, cazzo, l'ha fatto proprio a pezzi. Sanatorio, tu sei rocco, cazzo, guarda, sono stato cazzo qualche minuto a ascoltarlo, cioè veramente cazzo, gli ha detto, non so quanto gliene ha dette, cazzo. I segnali, vabbè, un po' tutti i canali, soprattutto francesi, solo che non provo gusto se non c'è un italiano a parlare italiano. Poi molti sono questi locali, come possono essere i nostri, quindi loro hanno interesse a parlare tra di loro, ma non hanno interesse a comunicare con lingue straniere. Qualche collegamento ce l'ho fatto anch'io giorni scorsi, prima dell'acqua, e a me ne sono usciti diversi, già sono andati bene, dai. Senti un po', ho rimesso la boomerang e ho aumentato leggermente i watt, non ho messo al massimo perché ho notato che mi dava picchi negativi, quindi mi sono mantenuto intorno agli 8-9. Questo è un apparato diverso però, è un apparato diverso con lo Smitter a LED, non te lo so dire, comunque sconsigliano, quello è monofinale, quello è un singolo finale, più il prefinale, guarda che la radio va a perdere parecchio, più alzi, ogni watt che alzi va a perdere, ecco perché io l'avevo lasciato a 5. Ma perché è peggiorata rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti? È difficile dirlo, altra radio, altro altoparlante, tutto diverso è qua. Dovrei mettere a parità di condizioni, però sconsigliano, perlomeno io lo sconsiglio di lasciarla 8-9 watt, assolutamente. Quindi neanche con la nuova radio mi sai dire quanto arrivo di segnale da te. Aspetta, faccio un attimo, in un attimo, fermo lì, non tocca, c'è, puntella. E vabbè, adesso non ti mettere a smontare tutto. Ulla! Vediamo se ho sbagliato Mike. No, ok. Prova un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, non ha cambiato niente. Aspetta, ti attenuo. Passaggio lungo, prego. Passaggio lungo, piede normale, piede dovuto. Vediamo di allungare un po' il brodo. Allunghiamo un po' il brodo per vedere, insomma, attenuando anche il segnale per vedere qual è la differenza, vediamo un po' cosa esce. Allora, si è attenuato Ria 1, Santiago 1, 6 Santiago 2, ma questo Smitter, comunque giustamente passando da 5 a 8 magari aumenta meno di mezzo Santiago, sarà 2 dB in più, decibel. però io facendo le prove mi accorgevo in cuffie, man mano ogni watt in più era radio che si portava via, modulazione che si portava via, ho detto no, meglio una bella modulazione. Poi ricordati che quando piloterai qualcosa la dovrai pilotare in basso con 4 watt, non di più, 4-5 non di più. Marco, per controllo, cambio. KK, aspetta che c'è qualcuno avanti. Ciao Daniele, ciao Marco, un controllo del segnale per cortesia, Marino, avanti. Ciao Marino, ben ascoltato, buonasera, sono Gianni da Sassari, centro storico. Ciao Marino, aspetta nei buchi biciti. La versione di Carogna, ciao. Avanti, ciao, un controllo questo apparecchio dall'armadio, era molto ambiente, vediamo se esce, avanti Marco. Santiago 9, Santiago 9, radio normale, come un omologato più o meno, e ci sono gli spagnoli, i francesi sotto che ti disturbano di brutto. Avanti Gianni. Ehi, anche per me il 9 è bello abbondante, Maria, Maria, quindi sì, bello 9 abbondante, la radio vabbè, sì, c'è un sacco di, insomma, di propagazione, quindi c'è gente sotto, comunque va bene. Benissimo, ti ringrazio, continuate, che non ascolto, grazie. Avanti Franco, ciao. Ehi, comunque la radio buona, riconoscibilissima la voce, la tua voce. Ma a me stai dicendo? No, a Marino, già funziona tutto. Sì, gli spagnoli, va, spagnoli, fissato gli spagnoli, stanno arrivando 7, 8, dipende. Qua poi sono anche coperto, quindi la tua posizione è molto migliore. Se tu avessi una mantova, sai quanto imbatteristi, ui, di brutto. Guarda, qual è? Qualche giorno fa ho parlato, ho fatto un QSO veloce con l'Inghilterra, poi ne ho fatto uno sulle Asturie in Spagna, e lì arrivavo a Santiago 5/6, poi ne ho fatto uno a Cartagena, lo stesso lì arrivavo benino, uno in Andalusia, e poi sono riuscito a parlare un attimino con Nord Italia, Casale Monferrato, Novara, Bergamo e nominalmente. Puntella, Puntella! Ciao Daniele, buonasera! Era ora! Eia, quindi già, vabbè, finché sei senza aiutino potrebbe andare, non lo so, non rilevo niente di strano nella modulazione, però, vabbè. KK, sì, è tutto sotto controllo. Ciao Daniele, buonasera, non c'era nessuno a parte la propagazione, quindi io ho sentito Marco che è arrivato e niente, ciccia. KK di Rosmet, io sono un po' qua, un po' al 45. E oggi c'è un bel movimento, sia in AM che in FM che in banda laterale, un sacco di segnaloni, un sacco di segnali, solo che italiani niente, a me non, alla fine i francesi vogliono parlare francese, non fa nemmeno a parlare in inglese, e allora pazienza. E tu fischialo Marco, fischia, già ti capiscono. Una volta ne ho fatto incavolare uno e cominciavo a chiamare ecute, che vuol dire ascoltate, eccolo, avanti, no, ecute, avanti, ecute, alla fine me ne ha dette quattro. E vabbè, i francesi sono molto nazionalisti per la lingua, tranne qualcuno. I tedeschi invece si prodigano di parlare in italiano se possono. Però sai, di esame in banda laterale in inglese si fanno, in inglese. Poi vabbè, in AM è un altro conto, in AM ci si arrangia, dai, con gli spagnoli si tenta di parlare spagnolo, con i tedeschi, quello è ostico, Con Google traduttore. Poi io le lingue non le so, io sì, qualche cosa di inglese, ma no. E vabbè. Vabbè, riprendi Gianni. Ehi, Daniele, mica l'antenna ti sta ancora aspettando, mi. Dimmi quando vuoi passare, così te la riporti a casa, ok? Ehi, quando esco già, sono in zona, me la prendo. KK, sì, vabbè, avvisami prima, fammi un fisso, un messaggio, insomma, mi fai una chiamata così mi metto, mi rendo operativo, d'accordo? Andavè. Ho sentito gente fischiare sotto, non so se era propagazione o qualcuno dei nostri. Avanti. Comunque sta un po' calando, da quando sono entrato sono calati parecchi segnali. Vabbè, io adesso mi sono fermato qua. Poco fa ero dalla, come si dice, da 45 in poi. E vera che il camionista l'ha sconfinato. Era già meno di uno, non mi ricordo dove, boh. Lì ci vogliono kilowatt, o qualche centinaio di watt almeno. Già, se ti vuoi far sentire. Perché loro li senti, ma... vero, Daniele? Si conferma. Senza vitamina non va da nessuna parte al 45. Eia. Comunque già, anche in banda laterale, non solo la tripla 5, anche lì se c'hai un centinaio è di lusso, Cioè la differenza è dal non essere sentito in banda laterale con tipo 10 watt d'ufficio a 100, ti sentono, cioè, io ho provato proprio tante volte, attacca e stacca, staccato non ti sentono, attaccato ti sentono, poi c'è qualche eccezione naturalmente, dipende dalla distanza, dalla propagazione. Certo, certo, no vabbè, 45 non fa per me, no, no. Detto, mi piace girare in su e vedere di fare qualche collegamento. No, lì è praticamente non è già partita persa all'inizio. Poi vabbè, comunque la cosa fondamentale non mi interessa, non mi interessa un certo tipo di discorso, capito? Sono più che altro curioso di fare qualche contatto più su. Ah, ma tu quindi hai rimesso la boomerang, quanto tiene di piccola boomerang? Ma in watt dici? Eia. Boh, devo ricontrollare il documento che avevo trovato su quell'antenna lì, ma credo 100-200 watt, non di più. Che poi picco vuol dire, se dice 200 di picco, un terzo in AM, un terzo, non mi fiderei nemmeno a dargliene la metà, capito? Tipo 70 in AM continui, se li regge pure, perché occhio al boomerang, perché dichiarano certe volte potenze che non reggono, mentre con le antenne verticali tipo mezz'onda 5 ottavi sei più tranquillo, capito? Vai Daniele. Gara. Non me lo ricordo neanche io, Marco, quanto ne tiene quell'antenna, capito? Ma penso, guarda, un centinaio, non di più, perché è piccola è quell'antenna, cioè è tutta buccia e niente. Tu pensi che c'ha 0 dB di guadagno questa antenna? Eia. Sì, quarto d'onda 0 dB, naturalmente non vuol dire che non viene sentito, però... dovrei fare il paragone alle antenne della macchina, no? Ci sono antenne un quarto d'onda, tipo un metro e mezzo, due metri, no? Che hanno sempre 0 dB in quanto quarto d'onda. Poi ci sono antenne della macchina lunghe 30 cm, quelle sì che perdono, ma perdono in modo eccezionale, cioè proprio non ti sentono, ne ho una qui della Midland, ma è... mi pare sia 60 cm, ma è un giocattolo ridicolo, va bene solo dentro città. Infatti non sono li buttati. Vabbè, costava 15 euro, però no, non li valeva nemmeno. Gava. Mi raccoso da Grassi c'è una gran plena, 10 euro la sta vendendo, nuova. Full size, cioè tipo... già hai capito, un quarto d'onda effettivo o caricata? Aspetta Marco, mi sono commesso, cos'è che hai detto? Cioè la Grand Plain full size o caricata? L'ho vista chiusa, è di sfuggita pure perché ho vestito Grand Plain, no, ora mi rogavo, non voglio sapere. Ma di solito, vabbè, ai miei tempi c'era un full size, no, normale, stilo da 270, radiali circa 2 qualcosa, no. E poi ci sono anche caricate, ma sono molto più corte, rendono meno. Poi già, quando potrai, tieniti da 5 ottavi, se puoi tirantare vai su Sirio o Mantova, se puoi tirantare. Se non puoi tirantare, già lo sai, no, Energy io, Energy Daniele, Energy... non Bacchisio, è Eugenio. tutti energy siamo, come la bibita. Sì, adesso volevo provare, insomma, volevo provare un esperimento. Provare a autocostruirla quella con la canna da pesca. Adesso magari se migliora il tempo me ne vado su internato che c'è spazio, prendo il materiale e provo ad assemblarla, vediamo cosa succede. Adesso mi voglio togliere questo sfizio, dai. Sì, io naturalmente in gusto personale sono più per l'alluminio, non voglio né fibre di vetro né plastiche né canne da pesca, alluminio. Anche perché nella canna da pesca ci metti un cavettino, può essere stretta di panna, invece l'alluminio no, cioè tutta la superficie, non te lo spiego. Vabbè, a me piace l'alluminio, in poche parole. Infatti questo è tutto alluminio, anche i radiali. Kappa. Come si dice, da bricome ho visto che c'hanno le verghe in alluminio. Adesso non mi ricordo da che diametro partono. Mi ricordo che c'era un cestello dove c'erano dove c'era dell'alluminio. Però sinceramente non mi ricordo che tipo di diametro c'hanno, se ce li hanno tutti e da che diametro partono. Se no al limite si potrebbe anche tentare di autocostruirla. Anche. Le ho viste anch'io quelle stecche forate, no? Quelle di varie misure. E ho detto, caspita, qua ci puoi fare un'antenna quasi. Naturalmente, quello che dico io già, c'è l'antenna già pronta, c'è una certa solidità strutturale, le cose abbozzate fatte in casa possono non essere robuste se viene vento forte. E cioè, piuttosto che ne cala tutto, preferisco un'antenna già pronta, ben fatta, con staffe solide, eccetera. Adesso va bene questa. Un dettaglio, allora ho notato questo, quando aveva ancora la Ringo praticamente lo strumento messo in posizione watt mi dava 5 watt proprio spaccati, perfetti. Quando poi ho sganciato la Ringo e ho messo la boomerang, ho riagganciato il PL, sono sceso giù, ho acceso la radio, praticamente invece che 5 la rete mi segnava 6 watt e mezzo. Ma col wattmetro esterno? Giustamente. Assolutamente sì. Quindi al cambio d'antenna ho visto che c'è stato questo leggero guadagno di watt senza toccare assolutamente nulla. E magari i watt sono quelli, questione di impedenze, di è una cosa minima, lo fa con tutte le radio, con tutte le antenne anche a me. Ho già, però vabbè. A parte che la radio, i watt della radio si terranno col carico fittizio che io non ho. E io mi sono basato sul canale 19, ho fatto una media, no, a metà dei 40 canali normali, però ci vuole il carico fittizio e poi un wattmetro come si tocca, tipo quello che voglio io vorrei il Daiwa CN901, però sono 150 euro circa con la spedizione, si capì? La spiegazione più plausibile che mi è stata data, molto probabile che l'altra antenna aveva, c'era congenito quel discorso delle stazionarie, quindi ho cambiato l'altra praticamente con una stazionaria relativamente più bassa e più stabile, praticamente l'indicatore è salito, capito? Sì, anche in base alle stazionarie i watt vengono falsati, ho notato. Poi a parte ci vorrebbe strumentazione professionale a livello di beard. Comunque il Daiwa 801-901 è bello, ti dà anche volendo la potenza VG, la potenza PEP, è una bella bestia. C'è la media globe, 139 euro, più la spedizione naturalmente, quello è un bel prezzo. Forse Daniele lo conosce pure, lo strumento. Daniele? Si conferma, quello lo stesso, ma lo sto corteggiando anch'io. Fai tutto con quello, bello, bello. Vabbè, io le riprendo adesso, se c'è il microfono che va lontano, 5 minuti, dai, riprendo dopo. E anch'io adesso vado a mettere mano alle pentole, sennò qua non si mangia. Capito già, quello poi vabbè non è certo professionalissimo, però è dello strumento, non devi stare a tarare il fondo scala ogni volta, e ad aghi incrociati, è un bel apparecchio. E c'è sia la versione da 2 kW che da 3 kW. Che vabbè, per la 27, quello da 2 kW basta avanza, sì. E quando li userai mai 2 kW? Ui. Certo, certo. Sì, sì. No, ma mi l'avevo... chi me l'aveva fatto vedere in fotografia? Qualcuno comunque mi aveva postato una fotografia dove c'era quello strumento. Sì, sì, mi sembra di averlo già visto. So di cosa stai parlando. Adesso, vabbè, ho guardato il tastino, c'avevo il bip inserito e non me ne ero accorto. Lo metto quando vado nei canali alti, così almeno quando non mi piace usarlo. Adesso sono 1 e quasi 2 di stazionaria. Oh, che poi già una volta che vedi che comunque all'asciutto l'antenna non ha stazionaria, l'antenna si attacca in diretta, ti dà meno perdite, ti dà più guadagno in ricezione e trasmissione, anche una cosa infinitesimale, infinitesimale. Bene, sì, un bel apparecchietto quello. Lo puoi illuminare, lo puoi elementare per illuminarlo e mi pare per darti la potenza picco ha bisogno dell'alimentazione, cioè il circuitino che ti fa vedere la potenza picco deve essere alimentato da un alimentatore. No, è un bell'apparecchio quello. Certo non è roba ZG, caspita. Vabbè, già lo sappiamo, no? Ci sono vari apparecchi per tutte le fasce di prezzo. Va benissimo. Sì, il discorso del... come si dice? Del misuratore, di collegarlo solo in casi di estrema necessità, insomma. Ci ho provato anche l'altra volta. Vabbè, poi mi sono accorto che c'era la calza del PL che non faceva contatto bene, quindi quello è sistemato e insomma è da lì ho risolto il problema. Ho sentito Eugenio l'altra sera e mi ha detto che da lui adesso arrivo a Santiago 7, quindi abbiamo fatto un ulteriore miglioramento. Con i watt attuali? No, credo che ancora non avessi toccata, avevo solo cambiato l'antenna. Eia. Comunque lo smitter di questi apparati mi rendo conto di quanto è tirchio. Cioè, ricordati la regola, Santiago 1 di quello smitter corrisponde al vero Santiago 5 e via. Il 2 sarebbe il 6, il 3 sarebbe il 7, il 5 sarebbe Santiago 8, il 7 è 8,5 e 9 è 9. Perché quando cambio apparato mi accorgo di quanto sia tirchio questo smitter. Te l'ho spiegato, no? È un diodo che in fabbrica non hanno voluto mettere il diodo buono, è un diodo al germanio, non so cosa sia. Praticamente su YouTube, se vai a cercare il video Lazzi, scritto Lazzi S-Meter, c'è un tizio che ti fa vedere la prova comparativa con l'apparecchio col diodo e col diodo originale, e fa vedere anche come cambiarlo, come tarare lo smitter però col generatore di segnali, che roba da laboratorio, vabbè, comunque molto didattico, interessante, dai. Va bene, già detto ciò, io devo andare a fare qualcosa per pranzo, ok? Ci sentiamo le prossime, ciao Daniele, sei ancora all'ascolto e ciao a tutti, ciao. Vabbè, io sono qua, casomai se ti vuoi riaffacciare basta bussare e niente, dai, io lascio acceso e niente, dai, ci aggiorniamo, ok? Via. Ciao ciao. chi è? Roba al telefono qua su internet e va bene, giusto ammazzare il tempo. Andavex, oggi è un bel aburotto. Ma è calato l'aburotto, ho fatto un giro anche al 45 e papà, ed è calata la propaganda. Io mi rollo una sigaretta. Fum. Cava. Aspetta una passa. Andà bene. Si è abbassata la propagazione, mi sono spostato, c'era un puttanaio sul 555. Parla un po'. Che succede? Ma io prima non mi ero accorto che avevo il noise blanker inserito, no? Insomma, già attenuato, non è pura come prima la radio, è come un po' compressa, poco, ma si sente, e trova riscontro con le prove che avevo fatto prima di dartelo. Io già lo so che sono più per la radio pulita, maniaco, c'è la radio buona che non di watt. Certo, no vabbè, ma l'ho segnato, ho messo un punto di riferimento, non ci vuole niente a rimetterlo come prima me. Sì, ma poi già c'hai il watt metro, è un gioco. Un gioco fatto, ma io l'acqua bolle, non bolle mai, forse sta bollendo, dai. Gandura Bay di nuovo, levano si muovi, ti giri cazzo e ce l'hai tutta fuori dalla pentola. Esatto, quando metti il coperchio mi, io non bolle, stacchi un attimo e ti trovi poi il fornello allagato. Dai, procedo, ma sono qua, mi sto andando venendo, sono un po' lo smartphone eccetera. Mi sto corteggiando anche io quell'affare, solo che caspita, 150 euro per non entrare, poi sto entrando poco, mi ci abbiamo altre preoccupazioni in casa. Certo, immagino. Ascolta, vabbè, una curiosità. Ho già chiesto informazioni in merito a Claudio, ma il canale 11 Alfa 27.95, cosa sai tu? Perdonami, già mi sono allontanato per buttare il sale, dimmi. Ho detto sul canale Alfa, canale 11 Alfa 27.095, cosa sai di quel canale? Beh, che i canali Alfa di solito sono più puliti, tutti vanno sui canali più normali, anche per in banda laterale, vabbè che tutti ormai hanno HF, cioè tutti hanno mille canali. Alla fine, sì, una volta, ti parlo degli anni 80, non tutti ce li avevano. Quando volevi fare un DX in banda laterale o anche non in banda laterale, si spostava sugli alfa perché di solito più puliti, capito? Perché erano di fuori della normale canalizzazione. Sono il 3, il 7, l'11, il 19, neanche il 15 pare. Tappa, perché ho notato che in determinate ore della giornata c'è un segnale forte, c'è una potente bianca fissa che dura parecchio e poi sparisce. Sì, ogni tanto lì ci mettevano servizi tipo baby monitor economici, cos'altro, telecomandi delle macchinette radiocomandate come sul 15 alfa, infatti qualcuno a Piazza dei Segni, non io, ma ho visto con i miei occhi, si divertiva quando aveva i bambini con le macchine radiocomandate, ogni tanto si accostava a qualche antenna con la macchina, sempre ti parlo anni 80-90, e si divertivano pigiando la portante a disturbare la macchinetta, che magari ci usciva dritta e finiva in mezzo al traffico, capito? Mi pare all'epoca i telecomandi erano pure anche analogici, no, avevano dei toni per la direzione voluta, no? Adesso mi pare sono tutti a 2400 MHz o roba del genere, comunque, tranne le macchine, no, economiche, scusa, ci sono quelle di Auchan, quelle della Rail Toys, usano ancora il 15 alfa, il 19 alfa, qualcuna anche 40 MHz. Capa, no, vabbè, dico, mi ha incuriosito, pensavo che fosse un canale riservato per cose particolari, capito? Cioè, che fosse gestito da qualcuno per altri scopi, capito? Guarda, io credo che tuttora, magari se trovi vecchi baby monitor, oppure baby monitor cinesi, magari funzionano ancora su quelle vecchie frequenze, capito? Qua non ne ho sentito mai, però sai, c'hanno pochi milliwatt, cioè devi essere proprio vicino per sentirli. Cazzo, qua Marco mi arriva a fondo scala, quando lo sento c'è questa portante, mi arriva praticamente a fondo scala, non si sente nulla, c'è proprio, dura parecchio, poi sai, mi metto a fare roba, ci rivado e sparisce. Però non ha audio, cioè non senti voci di fondo, niente. No, c'è questa portante bianca, proprio ti sto parlando di segnalone, cioè c'è questo segnalone forte. Insomma, l'altra sera sono rimasto tipo 10 minuti, l'ho lasciato lì, 10 minuti o un quarto d'ora, e che cosa si è attaccata. Poi mi sono scocciato, mi sono messo a fare altro, nel frattempo è passato il tempo, ho alzato il volume e ho visto che era sparito. Sì, poi magari nel dettaglio non lo so, ma ci sono radiocontrolli, roba del genere. Almeno una volta c'erano di più, poi adesso stanno sempre salendo di frequenza, le macchinette professionali mi pare siano 2.400 a 5.800 MHz, cioè tipo wifi, i droni, tutta quella roba lì, questa roba che è salita di frequenza, molto molto in alto. Bene, va bene, dai, un attimino butto la pasta. Kappa. E quindi poco traffico in 27, non c'è molto traffico, adesso non c'era 2-3 giorni che entravo qua su giù di lì. Novità niente, no? Negativo, ti stavo dicendo Marco, adesso mi sono spostato un attimo sull'11 alfa e c'è sempre il solito segnalone fisso. Sì, magari roba, non so, qualcosa della stazione, che ne so, radiocontrolli, ma non è idea, anche perché ci sono talmente tanti servizi che possono essere allocati qua e là, non te lo saprei dire. Vabbè, comunque niente eccezionale, era giusto un dettaglio, una curiosità che insomma. Anzi, una volta da ascoltare c'era tanto, anche fesserie, così. Adesso non c'è più niente, mamma mia, proprio, vabbè, un'altra epoca, proprio è passata un'epoca. Vabbè, l'acqua che punto è? L'acqua bolle, è buttata la pasta, adesso aspettiamo 10 minuti più o meno. Poi si condisce, si mangia, si digerisce e poi il resto lo sai. E si espelle. Come ho sentito uno, si espulge. Sarà neolingua, eh? Tutti i termini sempre di quel maledetto film e libro. Sarà della Lega, come ha detto qualcuno. Che praticamente la stragrande maggioranza di quelli che votano sono una gran massa ignoranti, così recitava il post. Certo che vabbè. Poi la mia vita non cambierà, cioè tu immaginati già, adesso sia che ci sia un regime di estrema destra che di estrema sinistra, la mia vita non cambierebbe, manco per le palle, siamo al di fuori della società, quindi cosa dovrei temere io? Vai, come stavo raccontando l'altro giorno, è solamente un grande teatro, è tutta una begliata per un guru. E purtroppo in molti non ci sono ancora arrivati. E poi questo anche il Movimento 5 Stelle, a comodo sono europeisti, a comodo sono anti-europeisti, la Lega, lo Stato, tutti sono il contrario di tutto me. E quindi io penso che strapperò anche la scheda elettorale, proprio non vado più a votare. Infatti non sono andato a votare. E non credo che voterò più. Io vabbè, già da parecchio. Le ultime due volte mi sono presentato al seggio, ma ti parlo di, adesso mi ricordo che anni era, con un documento in triplice copia per l'annullamento della scheda. Eia, più estremista di me quindi. Sì, non c'è il tanto adesso, dai. No, per carità. Un attimo e giro la pasta. HI, visto Gianni, hai voluto l'Europa, adesso te la godi. Io non ho voluto assolutamente nulla, già lo sai, come ti ho detto l'altra volta, come funzionano le cose, che non sono certo quei quattro maggiordomi che fanno finta di portare avanti determinate cose che cambiano il sistema, lasciamo perdere, e chi ci crede ancora veramente, boh, bah. Ti ricordi una chiacchierata l'altra volta? Sì, alla fine l'Europa, vabbè, io parlo per me, non a me, cosa è servita l'Europa? A non pagare la dogana dei pacchi europei, no? Quando compri cose dall'Inghilterra, dalla Francia, da... capito? Ma il problema è un altro, come la Grecia, A parte che tipo Grecia, Spagna, Italia non ci facevano niente in Europa per come erano messe, proprio niente. Ce la doveva fare la Merkel con quei quattro, le solite superpotenze, Spagna, Francia e Inghilterra. Ma vabbè, poi non ho capito se in Europa bramano per essere, se in Ucraina bramano per essere europei. Non so quanto gli convenga, meglio starsene con la Russia. Mi sa. Ti consiglio di, se vai su internet, digita Eurogend4, documentati un po' e poi mi dai la risposta. Cercherò. Eia, volevo vedere. No, si parlava di filo russi e filo europei. Ma filo europei non vedo cosa ci guadagnino, anzi mi sa che hanno da perdere. Troppo vasto è il discorso, infatti non ne facciamo. Dobbiamo parlare più di figa e non di politica. Degli Stati Uniti d'Europa se ne parla da tantissimo tempo, è un progetto che è partito molto da lontano, non ha di certo sdoganato Prodi, è un discorso fatto dall'elite da molto tempo fa, quindi non è roba di adesso. Perché vabbè, gli Stati Uniti, stessa lingua, stesso popolo, stessa nazione, stessa moneta, ma qua nazioni diverse, pure vabbè, vagamente monete diverse, non lo so, non sono il più a parlare di queste cose, non sono il più adatto, non ci vuole un cranio in queste cose, dai, infatti non ne parliamo. Va bene. Olbia. Senti, già risetti, so. E va bene. Adesso ho controllato, di nuovo sull'11 il segnalone è sparito. Eia, 11 alfa naturalmente, cioè col tastino più 10 kHz. Sì. Sarà roba da archiviare nei X-File. X-File, c'è su quella serie. L'altro giorno mi sono riguardato Kill Switch, un episodio in particolare, no? Che parlava già da allora di intelligenza artificiale, satelliti laser che praticamente distruggevano il bersaglio che tornava comodo distruggere, di gente che trasferiva la propria mente online, capito? Proprio la propria mente, tutta la propria mente, non so come altro dirlo, la propria personalità, la sua intelligenza online, una cosa virtuale. Stiamo parlando degli anni 90, insomma, un po'. Vai a mangiare tu, che ora? Ciao, buon marco. Ogni tanto ti fai risentire. Era ora, cassettina. Ciao Giulio, bene, hai sentito dopo un po'. Ehi, non sta entrando tanto perché... così un po' di salute, un po' di preoccupazione, eccetera. Allora, sto per buttare la pasta, Giulio. Vai Gianni per Giulio. Eia, ciao Giulio, buonasera. Ben entrato. Sei appena alto di microfono, se abbassi un pelino, perché l'ultimo passaggio che hai fatto, insomma, c'era un po' da brutto. Ehi, vabbè. Beh, sì, perché l'avevo aumentato perché ero sulla frequenza 27.590 e stavo parlando con gente del Mali e poi da Madrid, eccetera, eccetera. E per quello che avevo un po' aumentato. Va bene, dai. Andame. No, anche perché sono più vicino del solito al microfono, perché mi sono accomodato qua con la sedia vicino al tavolino, e dunque va bene così, dai. Andamai fanno leggermente più a bassa voce, e così almeno. Andame, vai Marco. Ancora non ha suonato, ma sta per suonare il timer. E oggi c'era discreta cosa, è solo che italiani pochi, tutti di fuori. E a questo proposito, già a me, ti avevo parlato di quell'apparato, no? Che nonostante sia programmato come praticamente metti il modo VFO su un canale, no? Poi torni sul canale e ci trovi la frequenza spostata. Oggi stessa storia. Mi sono distratto, ogni tanto mettevo modalità al canale, modalità mi ha scombinato i canali. Per fortuna erano due o tre, sono riuscito a metterli a posto. Però quando mai fate un apparecchio del genere? Cioè, la programmazione deve rimanere tale, e poi il modo VFO è un'altra cosa, con scelte personali di loro. Capisco, me l'avevi già accennato. Già accennato la caratteristica di quella radio. E chissà, ma non è che si è scaricata una batteria tampone o c'è qualche altro discorso? No, no, nessuna batteria tampone. È una memoria che viene... Non ha batteria tampone, no, no, assolutamente. Invece una volta, la prima volta proprio ho scombinato tutto, non ci stavo più capendo niente, ho dovuto riprogrammare e quindi, cioè, se tu vai un canale X, no? Dal canale X metti la modalità VFO, dopo devi ritornare sulla stessa frequenza del canale X e ripassare in modalità canali per non alterare i parametri. Ma comunque, secondo me, a me mi pare una strun, già avete capito. Questi qua non hanno questi problemi, lì c'è lune, fine corse, come vuoi chiamare. Vabbè, questione di scelte commerciali, boh. Vai Giulio. Ok. Va bene così. No, io uso sempre questo ormai, no? Perché intanto ha lasciato fermo, succede che poi mi si blocca come era già successo la volta scorsa, per cui preferisco utilizzarlo, tanto più che ce l'ho, almeno me lo sfrutto. Poi quando si blocca che non funziona più, pazienza, lo metteremo da parte e non se ne parla più. Già, va bene. Bene, si va così la radio, Gianni. Sì, sì, va benissimo, è che come sei entrato, capite, sì, evidente, come hai detto tu giustamente, c'avevi il microfono regolato per fare il DX, quindi vabbè, va benissimo adesso, perfetta. Ok, c'è una propagazione formidabile, ragazzi. No, ma me ne sono andato da quel canale perché c'era un paio di francesi, per carità, si sovrapponevano, e dunque però sentivo molto bene, da Spagna, da Mali anche, per cui già li sentivo bene, un certo Joaquin, poi c'era questo Alpamai, anzi questo Joaquin addirittura mi ha chiamato lui, poi io quando ho fatto chiamata ho sentito questo Alpamai, poi qua avevo chiuso con lui, l'avevo anche salutato, e allora mi ha chiamato questo Joaquin da Madrid. Va bene, va bene, avanti, avanti. Avanti il break sul 10. Bravo. Ciao Francesco, sì, l'amico sono io, sono Gianni che ti ha fatto entrare, buonasera, ben ascoltato. Santiago 7, Radio 4. Adesso ti mando avanti Giulio, così lui saprà darti un'indicazione più precisa, visto che c'ha un apparecchio molto più serio del mio. Avanti Giulio. Ok, ciao Francesco. Sì, Santiago 7 anche da parte mia. Sì, la radio è disturbata dalla propagazione, ma comunque già ti capisco quello che dici. Ma ti ho sentito anche ieri aveva la radio bella pulita, perché in quel momento propagazione non ce n'era. Adesso c'è un po' di propagazione, dunque si sovrappone e dà un po' di fastidio, niente di più. Ma non già capisco quello che dici. Vai Francesco. Marco ci sta facendo una pasta, è indaffarato con la pasta, quindi mi sa che per il momento è occupato e quindi non entra. Ehi, sì. È in fase di preparazione, mi sa che adesso è in fase di condimento e di magnuzia, quindi adesso per un po' sicuramente non lo sentiremo. Ok, avanti Giulio. Ok, già, lasciamolo mangiare così almeno cresce. Lasciamolo mangiare, che anche lui ne avrà diritto, sicuramente ne ha diritto, ci mancherebbe. E così è francese, e cosa ci vuoi fare? Non è propagazione questa, qui arrivano sparati, pensa un po'. Poco fa ero su 27.590, ma erano un macello, era, c'era poco di gente, uno sull'altro, per carità. Va bene, va bene, io ho cercato di selezionare un pochino qui, abbassando un po' la potenza, cioè la ricezione. Però si sa, quando c'è propagazione così si sente sempre. Non è più come una volta la propagazione, prima. Quando arrivano in Italia magari è più bella, però quando arrivano da fuori con tutte queste lingue straniere, magari comprendi. Io so solo fischiare a malapena il sassanese, sono fischiare, poi per il resto no, niente da fare. Avanti, Francesco. Del QRM e della propagazione, però la radio è buona, è 5, la radio è 5, è alta, abbastanza, per cui no, non c'entra niente il tuo microfono, è la propagazione che te la disturba un po', ma la tua radio è buona, ha voglia, ce n'è anche di troppo ce n'è, avanti già. Va bene, ascoltabile, si capisce. Sì, poi c'è tutto il bordello del QRM, quindi chiaramente un po' te lo porti dietro, ma non ci sono problemi. Chiaramente con la propagazione e gli altri segnali il tuo sale appena appena e scende appena appena, quindi vabbè, comunque già più o meno siamo lì intorno ai 7, dai. Infatti la propagazione che c'è sotto, però è buono, anche il segnale è buono, Santiago 7, 7 e mezzo, la radio 5, solo che c'è appunto quel fruscio della propagazione, ma quello non c'è da niente con la tua radio. E io denunciali quelli lì, così almeno la prossima volta non ti disturba. Del commutatore o qualcosa di simile, e quindi ha bisogno di sgranchire un po' i commutatori e i potenziometri, dai. Questo mi sembra di capire che se sia una cosa del genere. Avanti giù. Ok. Vabbè. Oh, già va bene, perché lascia come già va bene. Ascolta, dimmi una cosa, ma non ho più sentito Gianni. Non ho più sentito Gianni di Porto Torres, niente ne sai. Ma non c'è in Sardegna? A lavorare, boh. Vabbè, comunque ci lo sentiremo quando si ripresenta. Va bene, dai, io vi lascio, mi hanno chiamato, devo scendere giù, ci sentiamo, non lo so, forse più tardi, se coincide, se no pazienza, se no domani. Ciao Francesco, grazie per la chiacchieratina. Ciao Gianni, salutoni, a domani. Riprendi Gianni, grazie anche a te, ciao, ascolto finale, dopo chiudo, che mi hanno chiamato, dai. KK, ok, va bene giù, no problem, già lo sai, quando qualcuno chiama bisogna rispondere, e quindi dai, buona proseguimento di serata, ci aggiorniamo alle prossime, come si suol dire. Bene Meda, ok, avanti Francesco. Adesso il QRM si sta alzando parecchio, Francesco, si è alzato parecchio e praticamente insomma il livello si è alzato e sto iniziando ad ascoltarti, insomma, un po' così, quindi causa propagazione, adesso ascoltarti sta diventando un po' più difficile. Sì, il QRM si è sollevato parecchio, cioè praticamente arriva quasi al tuo segnale lì. Sono momenti dove praticamente il segnale del QRM è come quello tuo lì, e quindi molte volte faccio difficoltà anche a sentire quello che dici. importante. Chi è che vuole entrare su 10? Falso allarme, forse propagazione. Sì, Salvatore, ci sono momenti dove si abbassa e momenti dove il QRM si alza, quindi faccio difficoltà a capirti. Qua arriva un sacco di rumore, forse perché sono più vicino al mare, e quindi arrivano un sacco di segnali, capito? Oggi poca gente, dai, sicuramente saranno impegnati a fare altre cose più importanti. Va bene, perché solitamente a quest'ora già c'è un po' più di movimento. Sì, perché poi ci sono un sacco di rumoracce e ti fanno venire mal di testa, quindi ce n'è parecchia oggi di dovunque ti giri, in qualsiasi canale trovi sempre propagazione, modulazioni varie una sopra l'altra, quindi è un casino, ti va a venire mal di gabbo, quindi ti capisco. Staccato, sei sceso a Santiago 2 in mezzo al QRM, come hai agganciato di nuovo, sei ritornato 6 e mezzo a 7. Ma dello strumento? Sono liscio, liscio, liscio. stazione. Aspetta che fosse entrato Marco. Avanti Marco. Eia. Ciao Francesco, sì, stavo guardando il segnale, la differenza. No, ti volevo chiedere già, ma tu lo ricevi Santiago 2 quando stacca, ma di strumento? Cioè sullo smitter ti indica 2, ricordati che realmente quello è un Santiago 6. Quello ha fatto il paragone col Kenwood. Vabbè, io adesso mi riferivo proprio a quello che vedevo, quindi non ho tenuto conto di quel tipo di criterio, capito? Eia. No, perché poi magari i controlli non sono veri. Ecco, per esempio, Francesco quando stacca arriva a Santiago 6 e modulati 7. Reali, cioè arriva a Santiago 2 modulati 3, in realtà sarebbero Santiago 6 modulato 7, con attacca è 8 e un quarto, 8 pieno, dai, tra 8 e mezzo e 8, ecco. E purtroppo questi smitter, te l'ho detto, tutto fatto con le chiappe, sti baracchini. Poi vabbè, quelli che hanno lo smitter digitale lo stesso sono molto approssimativi, no? O con il LED, lo smitter a LED, ma quando mai si fa uno smitter a LED? Buio totale? Francesco, ci sei ancora? Poi segnali in città lo stesso sono di difficile interpretazione con questi baracchini tipo 3009, perché il range è talmente limitato, no? È questione di millimetri. E come si fa a dare un segnale dal 9,5 a 9,30 in 2 mm o 3 di spazio? No, no. Non si può dare un segnale veritiero. Vabbè. Invece il K c'aveva un bello smitter fino a 9,60, lì a voglia, però non era adatto a me, alla mia voce. E poi era un modello super base, diciamo. Vai Gianni. Eia. Sì, la propagazione sta salendo, Francesco, infatti praticamente in alcuni momenti proprio non riuscivo neanche a sentire quello che dicevi. Quindi ho fatto proprio difficoltà a capire quello che dicevi. I segnali stanno arrivando, segnaloni, magari c'è gente anche in banda laterale, quindi c'è un casino sotto e quindi mi viene difficile ascoltarti bene. Thank you. Gianni, ciao Francesco, dai, ci sentiamo in migliori condizioni, qua ancora, aspetta che abbasso, io essendo più coperto ancora, Francesco lo sento abbastanza bene, tranne qualche secondo. Gianni, vedi, tu sei più aperto, però becchi anche più propagazione che ti può coprire i segnali bassi, quello è. Va bene, dai, buona serata, dai, sentiamo le prossime. Molto bene, oh che mortuorio, mamma mia, adesso spengo tutto e mi attacco alla televisione. E tu già, a parte il baracchino, come le impieghi il tempo a casa o fuori? Aspetta che saluto a Francesca. Ciao Francesca, sì, veramente, guarda, io faccio grande difficoltà a sentirti perché c'è un sacco di roba sopra, insomma, praticamente si sta piano piano ti sta coprendo, quindi dai, grazie alla chiacchierata, ci sentiamo alle prossime. Ok, buona serata, buona carica e alla prossima. Ciao, buona serata. Ecco qua. Ciao, ciao. Avanti. Te l'ho salutato già. Non so chi è. Avanti. Ho sentito, ciao già, Luca, tu sei? No, non pervenuta qua. Boh, sento segnali in FM, di tutto, di più. FM, bande laterali, vedi tutto, cioè è tutto minestrone oggi. Questo è niente, mamma mia, mi ricordo 80 dintorni, mamma mia, ti arrivava fisso Santiago 9, la propagazione, tutto l'ammasso di modulazioni in Santiago 9, quelli appena poco limitrofi a Sassari non li sentivi, era una cosa folle, certe volte non sentivi nemmeno alcuni bassi in barra mobile a Sassari, e vabbè, c'era una clientela più nutrita, molta più gente, molto, siamo i disperati. Sì, un'altra epoca, un altro momento storico, un bel aburotto, di tutto e di più. Certe volte mi guardo sempre, già rido se viene qualche cataclisma, i primi a partire sono le reti cellulari, seppure non internet, e poi si ritorna alle radio per riuscire a comunicare a distanza. E molti usavano proprio con la moglie, tipo butta la pasta che sto arrivando, roba del genere, proprio come telefono se veniva usato. Certo, vabbè. Mezzo di telecomunicazione più, insomma, tra virgolette più semplice di questo, nel senso che anche con un portatile, volendo uno, si attrezza e si risolve anche quelle questioni lì, figurati. Ho notato un abbassamento di radio a metà del passaggio, come se avessi messo la mano sul mic o roba del genere, tipo così, vediamo un po' se lo fa. Marco, non ci ho messo la mano davanti, non so, non ho fatto assolutamente niente, non ho toccato niente. Sì, magari i contattini, capita. Bene, posta, AliExpress, mamma mia, quanta roba che arriva da internet, non vi arrivi, hai vinto un Samsung S9, poi... di mondezza, di spam. Sì, arrivano solo mail, ma pacchi niente. E poi tutte esche sono... elimina, elimina e boh. Spam. Infatti ogni tanto entro e inizio a buttarci un po' di roba. Mi, quello è l'FM, mi. How do you do? Vendo controscambio. Eia, io sono arrivato persino al periodo che regalo tutto, uia, mamma mia, però per lo smitter, non lo posso variare, lo smitter, il rosso wattmetro mi servirebbe, uno decente, la detta G proprio, ruba i soldi, il 201 ZG proprio non segna le stazionarie, non le segna. Vai anche sul canale 200, niente. Uno sta uno. Gava, gava, salutoni circolari a tutti. C'era Giulio, poi ha chiuso, c'era Francesco da Osilo, ha chiuso, è giornata un po' morta. Vabbè, fuori di DX ti prende la testa a me, la verità, o Daniele, anche a manda laterale prima, senti 3, 4, 5 voci assieme, non capisci né l'una né l'altra. Infatti non è più come una volta, mi prende molto la testa, non riesco a seguire. E quindi DX il logo. Molto disturbata è oggi. Oggi è disturbata, cambio. Comunque, Marco, bisogna stare sempre appresso e trovare il Taifa. Magari qualche occasione già si trova. Ma tipo usato? La verità, io usato mi fido poco. Serve sta fissa di pigliare roba nuova, perché almeno c'è la garanzia, c'è lo scontrino. Media Globe, quello da 2 kW che ha voglia, agando 2 kW, 139 euro più la spedizione. E come prezzo non è niente male, del CN901 HP da 2 kW. Quello da 3 kW costa, mi pare, almeno 25 euro in più, che poi in lire sarebbero 50 euro in più per... Ma poi chi ce l'ha 3 kW? Poi... Ehi, cazzo, neanche ci arriviamo al kilowatt con le nostre antenne. Se tra la mia e la tua, se mettiamo un kilowatt, cazzo, facciamo acciaio fuso. Sì, Daniele, conta che la Energy, per quanto io mi ricordi dal manuale, è data per 500 watt picco, cioè magari in banda laterale. Però in AM gliene puoi dare un terzo o fino a metà, ma io non mi fiderei a dargli 250 watt continui. Cioè in AM e FM non glieli darei, glieli darei un terzo, 150-170 massimo, non di più, perché secondo me quelle saldature che ci sono nel tubetto, nella bobina, sono le prime a sciogliersi. Sì, prima sciogli la plastica, e appresso la plastica le saldature. Poi le saldature, secondo me tocca chi la fai filante. Tipo la mozzarella, davvero. Sì, d'altronde io non ho mai usato potenze, dopo in città sono sempre solo con 3 watt, che poi sono 4 o 3 perché il filtro anti-TV è multiplo, per sicurezza l'ho messo, mi ruba un watt. Poi 50 metri di cavo, magari ne escono 2 di watt dall'antenna. È un bel cavo, cioè, mi frega quello, per quanto sia grosso, perde. Tappa di rosmetro. No, già ripeto, quello è un bello strumento, ti fa la VG picco, tante cose, con lo ZG per fare il picco io sto facendo scala kilowatt, fischio e sul picco, e bene o male corrisponde a uno strumento serio, là. Avanti. Forte chiasso, avanti. Io stavo pensando a Gianni, al TM999. Te l'ho detto, me ne sono fumati 3. Uno tanti anni fa e 2 dal 2010 a oggi. Fumati proprio. La sezione accordante, non si fa una sezione accordante con i potenziometri del volume. Aio, ma questi sono scemi da ZG. Vabbè, giustamente meno paghi e meno hai. Vabbè. Ecco, no, questo ha i, come si dice, i condensatori A, ma non mi ricordo adesso, l'ho aperto per curiosità, non ha i potenziometri quello che io, c'ha i condensatori, adesso mi sfugge, magari se te lo ricordi. Ad aria, cioè quelle lamelle che si... possibile, e allora vuol dire che nel vecchio modello, molto vecchio, erano ad aria, con i saturi, adesso non vorrei sbagliarmi, invece io l'ho visto nel nuovo, quello comprato pochi anni fa, è uno schifo, cioè quello Vabbè, ZG, abbiamo detto tutto. ZG va bene nei microfoni, la verità, e anche in qualche linearetto, però strumenti di misura, a parte i modelli di punta tipo l'HP1000, non mi fiderei più a comprare niente. Quei condensatori lì all'interno l'avevo aperto giusto perché ero curioso di sapere come fosse dentro, e ci sono due condensatori ad aria regolabili, e quindi forse fa parte della vecchia scuola. Dai, avanti Daniele. K di Rosmetro, è quello digitale, l'hai visto Marco? Che non mi ricordo che modello sia, ogni tanto mi appare ma mi sfugge, e quello lo stesso è una botta a comprarlo. Gava, però anche quello non mi fido, digitale niente, aghi, tutto solido. Ma stessa marca? Dai, fa sempre. No, è un'altra marca, è un'altra marca, cacchio che non mi ricordo, aspetta che lo cerco e te lo dico. Sì, comunque anch'io preferirei ad aghi, cioè finché si tratta di un alimentatore che ha l'indicatore di volt, che bene o male sono stabili tanto quanto, ma lì uno strumento che sai deve dare il picco, come dire, non lo so, mi sembra più la lancetta più reattiva, quello magari si deve, non lo so, non mi piace a me. Ah, LED, vediamo comunque il modello. Gava, e si conferma. Aspetta, mi ha apparso questo Media Globe, aspetta che metto quest'altra cosa qua. Adesso non riesco a recuperarlo. Che poi c'è anche qua, eccolo qua, I6. Si chiama Nisei RS70. Adesso lo guardo, vediamo, Media Globe, eccolo qua. Comunque ho visto che Media Globe ha i prezzi migliori, lo sai, per acquisti passati, no? Diciamo roba grossa, sempre prezzi inferiori a tutti gli altri. Pensa che davano il nuovo LAN48 per lo scritto in lettere, 150 euro spedizione compresa, qualche anno fa, quando gli altri lo vendevano a 200 euro quasi, e tante altre cose costano meno. Infatti Media Globe ho comprato abbastanza roba, dai. Gava. E poi guarda che questo Diamond non deve essere neanche tanto giocato, come strumento costa, insomma, deve essere media qualità, dai, medio buono, no, quanto al Daiwa, leggermente inferiore al Daiwa, però secondo me il suo lavoro lo fa. Sì, però chissà perché preferisco vedere la lancetta, il picco della lancetta, vecchia scuola, mi detto tra noi, non metto troppo smitter digitali, no, a LED, no, non mi piacciono. Aspetta, lo sto cercando, vai Gianni nel frattempo. Sì, vabbè, io adesso c'ho questo, mi tengo questo, va benissimo. Per quello che ho, c'è neanche l'avanzo, già si sta comportando bene, dai, non mi lamento. Comunque il Diamond è analogico, Marco, è analogico, soltanto che non c'ha gli aghi incrociati e ti devi controllare le scale, capito? E ti fa anche il picco, e costa la metà del Daiwa. Mo ci arrivo. Allora, com'è che non lo trovo? Ma non è il Metro Power, no? Metro Power è scritto, no? No, è scritto, tu cerca Nisei RS70. Io non so neanche se lo venda Media Globe. Ah, per quello, allora lo cerco generico. Qualcosa avevo visto, ma... Campa di Rosmetro, chi è che vuole entrare col fischio, anche senza può venire avanti? Ma per caso è piatto? Sì, è piatto, sì. Guarda che c'ha tutta la strumentazione digitale davanti, c'ha un'entrata e un'uscita di antenna nei lati. Nissei, quello tratto marca Nissei RS? No, francamente no, non c'è storia, no. No, l'altro poi è illuminabile display, o magari anche qui. No, troppo lì. Non mi piace. No, piuttosto niente. O Daiwa o morte. Poi anche Diamond naturalmente fa roba a lancetta, solo che siccome la mia vista non è più quella di una volta, più grande è lo strumento, meglio è. Quindi il Daiwa per me è ottimale. Si conferma, perché strumenti di misura, cioè sono... Quanti ne vuoi? Ce n'è uno, guarda, vecchia scuola di strumento di misurazione, che quello è bello, che costa 200 e passa euro, usato, pensa a due, perché sicuramente non lo faranno più quello, bello, bello forte. Ma non sarà il Beard? Aspetta, quello che resta grigio, che li trovi in alcuni video quando fanno le prove di misura del picco picco delle radio. Come si chiama? Mi ha detto Marco Beard, bravo, India Romeo Delta. Sì, il Beard è un classico, aspetto un po' retrono, e mi pare che abbia delle bobine di frequenza intercambiabili, un affarino tondo che li mettono sotto, no? E in base alla frequenza dove devi operare. E allora è lui, quello sto dicendo io. Capo di Rosmetro, quello è bello, cavolo. Eccolo qua, Beard. Molto retro d'aspetto, però quella roba, però credo che sia solo wattmetro, anche rosmetro, e non riesco a vedere. Qua dice wattmetro, ho idea che sia solo wattmetro, ma potrei sbagliarmi. Non lo so, ma sicuramente questo fa solamente i watt, almeno visto così, perché ho problemi di connessione che sta rallentando. Aspetta un attimo, io non ho qua davanti. No, sicuramente questo fa anche rosmetro, almeno quando ho trovato non mi sa che fa anche il rosmetro, perché fa il, come si dice, l'FVD, era il riflesso dell'antenna pure, c'è il 4304. Eccolo, sì, ce ne sono vari modelli, sto vedendo sigle 4304 oppure 44, aspetta com'era, probabile, sì, qua non mi ingrandisce la foto, vabbè, quella è roba molto costosa, giustamente vale quello che costa, ma quella 27, già il Daiwa è degno di un radioamatore. 47, so che caspita, ZG non ne compro più, mi dispiace. Strumentazione no, niente, solo microfoni vanno bene. Capa di Rosmetro, andare, vediamo cosa più là, cosa riusciamo a fare. Tu pensa che quella bobina intercambiabile qua costa a Fannapoli 90 euro solamente per che non so che farà 50 125 megahertz, 2500 watt ottiene, 100 euro finita di spedizione. Avanti, io sto leggendo dall'America, penso che sia roba nuova, 670 dollari, vai tu. Cavolo, bella botta, no, vabbè, spenderci cifre astronomiche non ne vale la pena, dai, basta che sia uno strumento, anche che costi 50-60 euro, basta che segni giusto, poi e faccia picco picco la VG, tutto il resto va bene. Ahia. A me interessa più che il wattmetro come rosmetro, cioè che segni le stazionarie più o meno reali, cioè possibilmente più reali. Ne avevo uno qua sparito, era rosmetro a correttore, sparito. troppa gente ci mette mano qua e giustamente la roba sparisce, si perde, magari è stato buttato credendo roba vecchia. Dai Gianni. Cassarola, ti è stato buttato uno strumento, magari l'hai conservato da qualche altra parte, se magari l'hai messo e adesso non ti ricordi dove l'hai sistemato. Guarda, io ho guardato dove era umanamente possibile cercare, poi sicuramente è stato messo in un punto dove proprio non è umano metterlo, non è umanamente possibile nemmeno pensare a metterlo, magari è finito lì. Lascia perdere, quattro. Ogni tanto, ogni 10 anni ricompare qualcosa da passa 10 anni prima. E poi abbiamo buttato un bel di roba dagli stanzini, una follia proprio. E allora vedi che tra una decina d'anni ricompare lo strumento. E quando sarà non più funzionante, ma chi lo sa. Hai te il tedesco? A certe volte mi chiedo se abbiano qualche volta sotto, siano lisci questi. Ah, a San Perlo, come cacchio, che cacchio di potenze usa? Di gomma liscio, di gomma. Avranno attaccato roba sicuro. Quando la propagazione è buona anche liscio mi fa magia la propagazione, quando vuole, è che siamo nella zona oscura. Quello è vero. Già fugge, anche liscio va dappertutto, Già si viaggia. Anda bene Meda. Va bene. Anche io qua sono liscio come l'olio, vedi? Due vac e tira che tira ballacche. No, ero io, ho chiamato il tedesco, ho detto attention Germany, do you copy Italy Sardinia Island, ma non credo che mi senta. Ah, in FM. Ehi, qual era l'FM, ho provato, ma magari c'hanno questo locale come noi, mi. Anche loro sicuramente. Gabba, pip. E tu già, a proposito dell'FM, avevi risolto la deviazione in trasmissione in FM? No, ti ripeto, avevamo fatto quell'esperimento, ma poi ti ricordi che ci avevamo ripromessi di rifarlo, di prenderci 10 minuti noi due e di provare a controllare per vedere se variava qualcosa. Ehi, vabbè, quando vuoi, tanto già lo sai, WhatsApp è disponibile. Poi c'è stato questo pasticcio di cambio numero di nuovo, mamma mia. Comunque Iliad, te l'ho detto, l'ho mandato al diavolo perché veramente qui a casa non prendeva, no? Perché c'ho tutti i ripetitori equidistanti, no? Tutti lontani. E qua, alla fine, pagare due schede, mi ero rotto le scatole, pagare due schede. Adesso c'ho solo o mobile, che sarebbe Vodafone. Ho capito, che tipo di offerta c'hai su quella? Era la prima offerta che avevano fatto, 6,99€, 30 giga mensili, e per quanto abbia fatto di tutto guardando sempre video YouTube per finirli, non sono mai riuscito a finirli 30 giga mensili. Senti un po', ma tu il telefonino lo usi anche come hotspot per usare internet col PC? No, negativo, perché per il computer vero e proprio c'è la fiscalità DSL, volendo anche il wifi. Ok, kappa. Sì, adesso vabbè, quindi sono 6,99€ con 30 giga di traffico. Ma chiaramente al primo acquisto, quando tu attivi la SIM, cioè il costo totale quando tu vai a fare un contratto nuovo, quindi quant'è? A parte che quel contratto già non c'è più. Hanno fatto prima 30 giga, poi 40, poi 50, poi con i 50 hanno aumentato anche le tariffe. Comunque se all'inizio paghi la SIM, forse l'attivazione, cioè tutti i costi iniziali, no? E non vorrei dirti balle, potrei dirti 20 euro, no, meno di 20 euro, forse un 17-18 euro all'epoca. Adesso sono saliti più i prezzi. Ho capito. Perché io stavo cercando un'offerta di una SIM solo traffico internet, capito? Solo internet. Però poi alla fine ho desistito. Tu cosa sai in merito? Solo internet, praticamente per lo smart, solo internet non te lo danno, ti danno internet e telefonate gratuite praticamente. Loro ti dicono illimitate, in realtà non è così, è una menzogna, come tutto quello che c'è dietro le cose commerciali. Adesso guarda, e poi Iliad funzionami, cioè fuori casa prende a Platamona 90 megabit al secondo, a Milano proprio volava, nella zona dove ero io. Qua Sassari più di tanto non va, però funziona, cioè anche andando a 30 megabit al secondo di velocità. Ehi, chi guarda i video in 4K mi pare, o in Full HD, senza pause, senza interruzioni. Adesso guardo le tariffe, vai Daniele. Gava, dai, vi lascio. Vado a fare un po' di carichetta, se qui ci sentiamo più tardi, dai. Ehi, Daniele, che ore sono le 8 e 9, caspita. Cesso quanto hanno aumentato le tariffe. Ehi, io penso che ho pranzato alle 7 e mezza, che ora era? Non per niente, mi chiamo Pipistrello, Rafa Pignara, vabbè. Allora già, sono salite le tariffe, saluta Daniele prima, poi te lo dico. Ehi, ciao Daniele. A più tardi, ore prossime, ok? Ok, dai. A più tardi. Buon proseguimento. Ciao, ciao. Eia, ciao di nuovo. Allora Gianni, o mobile o mobile, così. Siamo arrivati a 12,99 al mese, infatti non convengono più a questi livelli. Cioè finché pagavi, che ne so, con Iliad 5,99, 6,99 con un mobile, ancora, cioè tutti questi 50 giga, cioè io con un uso normale non li consumerò mai 30. C'è gente che diceva che non gli bastavano 50 giga. Ma cosa vuol dire 50 giga? Vuol dire che stai a guardare video 24 ore su 24, come si fa? O non lavorano, non lo so com'è. Oppure si mettevano a scaricare. Se inizi a scaricare film, a vedere già sei succia, già spartano 30-50 giga. No, e come fai? Tutto bloccato, ci sono blocchi. Allora, con Emule, quando ti colleghi al server hai un ID basso, perché a monte ti mettono dei blocchi, cioè non è come il router personale che apri le porte che ti interessano del router e fai transitare, no, lì a monte la cosa, altro che scaricare film. Naturalmente ti parlo sempre di Emule, ti parlo di MicroTorrent e tutti i sistemi P2P, e quindi inutile, tutto inutile lì. Quindi 50 giga, 12,99 al mese, in più il 4G è limitato a 30 megabit per secondo, guarda che farabutti, l'hanno limitato, il mio arriva a 60 con la scheda iniziale, no? E quello hanno ridotto a 30, minuti limitati di telefonate invece non è vero, perché loro, ti spiego in breve, scrivono che l'utilizzo dei minuti illimitati, tra virgolette, deve essere fatto in buona fede, praticamente non sono illimitati, cioè devi fare non più di 8 ore al giorno e non più di 8 ore al mese. È una palla che siano le mitazze, capito? Sono dei farabutti. Dai. In sostanza c'è solo una parola per descrivere tutto ciò. È un camuffo. Sì, adesso vado a trovare. Allora, questo se fai una scheda nuova, ricordati, scheda nuova. Se invece abbandoni Iliad, per esempio, e passi a O Mobile, puoi pagare tipo 6,99, sempre 50 giga, minuti pseudo limitati, SMS pseudo limitati, anche lì non è vero che sono limitati. Solo che devi lasciare un operatore di quelli virtuali o tipo, non ti so fare, qua c'è tutta una lista ma non ne capisco. Vabbè, a futtidini. No, perché io ho una vecchia, come si dice, un vecchio piano tariffario della piano tariffario della Wind, credo. Insomma, non mi va più bene, quindi sto cercando qualcosa di alternativo per cambiare. Allora, all'inizio, quando è arrivato Iliad, sia Vodafone, sia Kena, sia TIM hanno inventato questi operatori virtuali per competere con Iliad. Però adesso che Iliad è un po' in calo, molta gente l'ha abbandonato perché si è rotta proprio le scatole di Iliad. In certe città va o non va, va o non va, cioè o va o non va. Iliad non ha le antenne sue ancora, sta sfruttando le antenne Wind 3. Quindi i ripetitori Wind 3 devono servire clienti Wind, clienti 3 e clienti Iliad, per cui bisogna accontentare tutti, però abbassare la velocità di ogni singolo utente, così presumo. Quando e se Iliad avrà le sue antenne, proprio i suoi ripetitori, allora andrà a tubo pieno. Comunque la scheda, vabbè, è messa da parte, se dovessi riattivarla un giorno la riattiverò. Se quando... vabbè, vedremo, dai. Ho capito. Con la Germania sottofondo. Mi è arrivata roba di 9.10, 9.15 mi. Avanti, chi chiama Italia? No. Avanti, chi chiama Italia? Avanti, chi chiama Italia? In FM è uno fortissimo, però tedesco. Già si sente ogni tanto a Burutti. Vabbè, adesso non mi voglio dilungare. Cioè, prima, quando c'erano le prime schede, o mobile conveniva, adesso non conviene più perché a pagare 13 euro al mese, più tutto il costo iniziale, fai prima a pigliare Vodafone direttamente. Certo, Vodafone è il vizio che magari ogni tanto ti aumenta la tariffa, ogni tanto tempo ci sono questi aumenti, poi devi dare il conto bancario per scalare il credito mensile, no, non so come funzioni. Siccome io non avevo da dare conto in banca, poi sempre qualcosa in più te la fregano. Qua vai al tabacchino e gli dici o mobile, ricarica 5 euro, 10 euro, capito? Non voglio che accedano a conti bancari e roba che non gli compete. E purtroppo Vodafone è sempre così, mi pare, tutto a conto bancario. Vabbè. A conto confusione, loro se ne approfittano, capito? No, vabbè, anche io quando faccio la ricarica vado a tabacchino e ciccia. Sì, sì, è la cosa migliore. Poi vabbè, può darsi che Iliad prenda anche in zona tua, non lo so, lì bisogna avere la copertura. Per esempio qua a 30 metri ho un ripetitore Vodafone. Proprio qui, lo vedo dalla finestra. Per cui qui a casa va bene, ma anche fuori casa insomma. Poi naturalmente già, adesso non ti voglio assillare, ma Cioè questi operatori nuovi, no, questi O Mobile, Ilia, sono di solito frenati, soprattutto in piena mobile, frenati a 30 megabit al secondo. Se tu ti prendi la vera TIM, ti prendi il vero Vodafone, vai anche a 150-200 megabit al secondo, forse anche di più. Poi col 5G che arriverà non te ne dico, mi arriveremo al gigabit al secondo, vedrai. Avanti break. Buonasera, Lupo Grigio, segnale 8,5, quasi 9, leggermente oscillante. K, buona serata, siamo qui se ti serve, se vuoi restare. Sì, hanno alzato troppo le tariffe, mi dispiace, ma lo scopo iniziale proprio di avere una tariffa stracciata non ha più senso, in più hanno limitato la banda. Poi è saltata fuori questa storia delle telefonate pseudo limitate. Se vuoi avere una postilletta ma se riuscissi a trovarla te la leggerei, guarda. Già non so come funziona, dai. Più o meno sono tutti, cioè non più o meno, sono tutti precisi, cambia il colore, cambia il simbolo, cambia la cosa, comunque alla fine fanno cartello questi, quindi stiamo parlando sempre la stessa cosa. Sì, è come la politica, le cose commerciali sono come la politica, tutto uno schifo. Vediamo, illimitato, veramente senza limiti. Vedi, no, mobile, ma non è tutto chiaro, capito? Perché dice allo slogan, tutto chiaro? No, non è tutto chiaro, manco per le... cioè, capito? Certo, vabbè. Il commercio esiste da quando esiste l'uomo, quindi al giorno d'oggi tutto fa parte del commercio e si non hai compresi. Ecco qua, allora, traffico giornaliero in uscita, cioè le telefonate. E beh, non scorre? Aspetta. Quindi, secondo i principi di buona fede, noi nostri, loro non, buona fede e correttezza, no? Quindi non puoi fare più di 160 minuti di telefonata chiamando tu, no? Al giorno. 160 minuti, tu dici, vabbè, non sono pochi, al giorno sono 3 ore e 20 minuti, no? No, meno di 3 ore, scusa, sono 2 ore e 50. Poi traffico mensile in uscita, cioè telefonate uscenti, al mese non più di 1250 minuti, poi fai il conto, vedi quante ore sono. Poi dice traffico giornaliero in uscita verso altri numeri o mobile non superiore, non vedi postille, postillette, quindi quando scrivono limitati è una menzogna bella e buona. Dai. Il classico specchietto per le allodole mie, basta, cioè, stiamo parlando sempre della stessa pasta, cioè, quindi non c'è manuta, cambiando l'ordine dei fattori pronto non cambia. No, perché illimitati vuol dire che tu telefoni e puoi stare 24 ore al giorno, invece come vedi, vabbè che io ci sto veramente poco al telefono, non sono di quelli che sta col telefono sempre all'orecchio, anzi, poi non si sa mai con queste radiazioni, non radiazioni, già ci stanno stracciando i capelli per il 5G, che è cancerogeno, ogni volta dico, l'hanno detto col 3G, col 4G, adesso col 5G. Poi può darsi che dopo che uno sta tutta una vita col cellulare all'orecchio, può darsi che insorga qualcosa, ma non è detto che insorga per le onde elettromagnetiche del telefonino, chi lo sa. Vabbè, il 5G stiamo parlando di una cosa allucinante, comunque, rispetto alla tecnologia attuale che c'è, insomma. Non è qualcosa che fa bene certamente alla salute, anche perché ci saranno nuovi punti di attivazione, segnali molto forti e poi vabbè, chiaramente non ti diranno mai cosa che patologie possono causare queste tecnologie così. Non sono stupidi. Però in molti paesi, molti paesi del mondo, insomma, si stanno già muovendo da un bel po' di tempo contro questo tipo di tecnologia qua. Ma già ci sono un sacco di testimonianze, un sacco di ricercatori chiaramente non schierati che parlano di tecnologia assolutamente nociva per la salute, quindi vuol dire ce n'è di roba molto discutibile. Sì, poi questo allarmismo comunque, sai perché? Perché pare che, non so se è il 4G, cioè noi abbiamo un limite, no, di potenza, dobbiamo stare in Europa al di sotto di certi limiti, grosso modo, o in Italia, no? In Italia credo. Magari in qualche paese europeo può cambiare sto limite. In America, quanto ho letto, non so se il 5 o il 4G o entrambi, era molto più elevato, molto. Cioè, era una fucilata proprio di potenza, capito? Ecco perché molti sono allarmisti, perché... Però vabbè, in Europa hai certi limiti, bisogna stare al di sotto di quelli. Qui in America si possono anche cuocere il cervello, buon viaggio. Possono mettere anche la testa nel microonde se preferiscono. Cosa ne esce fuori? Un altro Trump ne esce fuori. Sì, sì, comunque come tecnologia è molto complessa e molto più potente di quella attuale, insomma. E quindi si parla di sistemi, di frequenze, di potenze diverse, insomma, diciamo che l'elettromagnetismo, l'elettrosmog, chiamiamolo, cioè che è meglio, non è molto salutare per l'essere umano, in caso anche il campo magnetico creato dall'impianto della corrente di casa non è che sia il massimo, qualsiasi apparato elettrico, insomma, genera le sue belle frequenze, insomma, non è che vadano molto d'accordo, già lo sai, con l'essere umano. Ci sono certe persone che sono quasi mortalmente allergiche alle onde radio, soprattutto alle alte frequenze, tipo cellulari. Hanno fatto vedere un gruppo di persone che doveva vivere in zone abbastanza sperdute, senza ripetitori, perché risentivano parecchio delle... Ma quelli sono casi limite. Casi limite. Ah, poi ho sentito parlare del 5G, probabilmente di frequenze più alte. Cosa comporta frequenza più alta? Che aumenti la potenza dei ripetitori, cosa che in Europa forse più di tanto non puoi fare, oppure devi aumentare il numero dei ripetitori, delle celle, no, come le chiami? Io lo chiamo il ponte, si chiamano i ponti radio, no? Quindi con frequenze alte dovranno aumentare il numero di ripetitori, ponti, come li vuoi chiamare, celle. Perché aumentare, come fanno in America, adesso non trovo l'articolo già, comunque era molto più alte le emissioni, devi vedere. Non so se 10 volte tanto rispetto all'Italia. Sì, chiaramente nel territorio praticamente la densità del numero di celle sarà maggiore, capito? Cioè, cosa ne so, invece di installare un tot tipo 10 per coprire quel territorio ne verranno installate 50, capito? Cioè, magari non con la potenza di prima, con potenze più basse, però con una copertura più capillare e più distribuita, capito? Comunque sei sempre dentro una sorta di reticolo, cioè sei sempre all'interno di quel reticolo, che se prima la diffusione era così così, adesso praticamente con questo sistema sarà molto più capillare, capito? Quindi sotto, come si dice, sotto, bah, non mi viene il termine, mannaggia, sotto copertura di questo segnale, capito? Ciu. Buonasera. Ma non mi dire che è l'eco che riflette. Nel baracchino sì. Che incubo, c'è Antonè. io stavo leggendo, troppi siti ne parlano del 5G, comunque questa cosa dell'America l'ho voletta. Mi ha ricordato una cosa già, c'era un film, no? Un film dottrinale, Johnny Mnemonic, no? Dove si parlava di un solito futuro, dove gran parte della popolazione era colpita da questa sindrome che colpiva il sistema nervoso, l'NAS, no? E da cosa era dovuta? Da tutti i veleni, le onde radio, le onde elettromagnetiche prodotte dall'uomo praticamente. E un medico dice, lo sapete qual è la causa dell'NAS? Dice, questa è la tecnologia, dice, l'aria è inondata di veleni, contesi come elettromagnetici, no, o onde radio. Dice, però ce la teniamo stretta la tecnologia perché ci fa comodo. Questo era un film di 20 anni fa, dico solo questo, del 95. Sì, mi sembra di conoscerlo, mi sembra che l'abbiamo già visto. Ciao Antonio, buonasera. Collego che ti ritrovi così sul 45 fai furore, ragazzi. Ehi vabbè. Aspetta un secondo. Io non mi ricordo più come funziona. Sì, il film con Keanu Reeves, era un Keanu Reeves ancora pre-Matrix. Eia. E comunque già non ne balla troppo, perché poi dopo 5G, fra altri 10 anni, faranno i 6G, sarà tutto pieno di radiazioni e tutto in aria, di quanto non lo siamo già. Ci vuole un ripetitore di ogni 200 bit per esattezza. La frequenza sono in pratica la frequenza 5G e la frequenza TV, lo vuoi sapere. No, diciamo quelli sono, aspetta, nodi di interscambio, non so, però le vere frequenze cellulari saranno più alte, aspetta, non ce le ho qua, non me le sono segnate, sono più alte di quelle attuali, credo, riesci a vedere? Guarda che la frequenza TV non è più 2169, ma è 2150, le altre frequenze sono tutte occupate dai telefonini, hai capito? Quindi farà 21 a 50, non a 69. In pratica stiamo utilizzando la frequenza TV adesso attuale, cioè vecchia, quella attuale, per i telefonini. Appena esce questo 5G, hai capito? Abbiamo un metro di aglio perché ci vuole un ripetitore ogni 200 metri, quindi in pratica se lo piazzano nel palazzo e capito, distribuisce il segnale ogni 200 metri, tutto lì. Sarai pagato naturalmente, però intanto te lo becchi tu e tutto il casino per fare. Però cioè i cellulari credo anche i ponti non trasmetteranno sui 600-700 MHz, intorno a quella parte sarà più alto, quelli sono per, come spiegartelo Antonè, tu sai dove trasmettono certi servizi, no? O in UHF un po' in basso oppure in VHF bassa, però sui 4 e 34 hanno dei nodi di interscambio, roba del genere. Credo che la frequenza TV che ci hanno rubato servirà nodi di interscambio, qualcosa del genere, non te lo so dire Antonè, io sto cercando qua frequenze 5G ma trovo parole, soltanto parole per te, com'è? Vabbè, lo vedremo in seguito questo, sempre se la attiveranno, perché non è così facile come pensavo, l'ho capito, c'è già 4G e mezzo, quello sì, 5 ancora non è cresciuto, però è là che già lo installeranno, adesso hanno pensato questa cagata della fibra, capito? E quindi sarà un bel fuoco, perché i soldi per pagare la fibra meglio che non c'è via, a meno che non sono pagato il reddito di cittadinanza, la bolletta. Posso? No, Antonè, forse allora hai ragione anche tu. Allora, qua dice, questo è tutto Android, è in assunto. Allora, il 5G in Italia lavorerà su tre bande di frequenza, ovvero dai 694 ai 790 MHz, quindi probabilmente sarà usata proprio come frequenza effettiva, quindi 694 790, poi 3600 3800 MHz e addirittura 26 giga e mezzo ai 27 giga e mezzo. Cominciano a diventare altine come frequenze da avvicinarsi all'orecchio, poi tutto dipende dalla potenza, e dice che la banda 700 MHz è la migliore come miglior compromesso tra livello trasferimento dati e penetrare attraverso le strutture, muri, no, perché sai, più sale di frequenza più caspita, non... al chiuso prenderà meno, mi sui 27 giga sicuramente, molto molto meno dei 700. Vai Gianni. Se passano attraverso l'edificio, figurati cosa si fa, si fa di Sant'Urasaro proprio. Mamma mia. Mamma mia. Lasciamo perdere, no. Sono cose pesanti comunque. Comunque Huawei ha avuto una bella inculata adesso, perché vado contro di quella cagata che stanno dando, capito, senza anticipo, grazie a chi ne sarebbe, perché qua una volta che non puoi installare né Google né YouTube né un accidente, perché gli hanno tolto la licenza, capito, gli americani, quindi si devono arrangiare. Aspetta Antonio, stai innescando un po', ciao, è più grave anche la situazione se non cambia, perché le fabbriche che danno i semiconduttori per produrre i processori Kirin, che sono cinesi, però non è tutto prodotto in Cina, hanno bisogno di semiconduttori americani, quindi anche con loro gli hanno tagliato i fondi, gli hanno tagliato i materiali. E alla fine Huawei, nonostante voglia fare il sistema operativo proprietario, che poi, cioè alla fine se lo fa solo Huawei, chi se lo prende più l'Huawei? Poi non avranno materiale per il processo, molti materiali per proprio costruire lo smartphone non ce l'avranno più dall'America, come fanno? Devono rifare tutto ex novo, reinventarsi, no. E allora direttamente Samsung, Xiaomi, tutto tranne che Apple però, passa via. Adesso sto attaccando un culo PS20, PS30, bella gaggata, un Android di tutto. Antone, stai innescando forte. Adesso. Via, c'è di fondo. Caspita, 3008, vabbè, 3008 ancora come 26 giga, cioè prende solo all'aperto praticamente, a meno che non sia attaccato al ponte, vabbè, contenti loro. Aspetta, guarda, adesso sono con il microfono, male suo. Adesso bene. Ok, adesso va bene. D'accordo, poco però stiamo usando le MP più 4. Gianni, è preoccupante, io sento il Muezzin che sta cantando, già è roba di Muezzino. Yes. Mamma mia. Comunque, non penso che certe cose, sì. A livello così a primo acchito possono causare qualche problema, ma sicuramente per certi colossi delle telecomunicazioni certe cose non le corica neanche il pelo, cioè, quindi sono convinto che, siccome si tratta solo e semplicemente di affari, vedrai che questa gente troverà la soluzione e ne uscirà alla grande, cioè non sarà certo una strada di gabbo di qualcuno, ma purtroppo come si dice? Casella proprio non sono connesso, purtroppo o per fortuna non saranno certamente certi signori a bloccare certi colossi così grandi. No, c'è perché tu hai detto il muezzine, perché soprattutto quando c'è propagazione, sai, metà fine serata, ogni tanto sulle vostre modulazioni sento, e sicuramente questo è tutto il cavo che ho che fa da antenna, magari passa attraverso la casa, sento le radio AM, le radio che sono sui 5, 7 MHz, 9 MHz, no, le radio AM, quelle dalla Cina, dall'Africa, tutto il mondo, appena mi riesco a percepirle, e poco fa sulla tua modulazione sentivo, cioè le litanie in arabo, no, quando fanno Allah, Allah. Grazie. Vabbè, Ubuntu, cro. Vabbè, dai, vabbè, figurati nell'etere cosa c'è in giro, cazzo. Lascia le barattine, vedi tutto. Là è grande. E quell'altro. Ogni tanto mi divertivo, no? Siccome qualcuno non li può vedere, allora entravo. Allah è grande, anzi Allah è il più grande, loro dicono così, capito? O poi ogni religione dice che la propria religione è l'unica vera religione, quindi che presunzione che hanno questi puttiei, tutti quanti. Dicono Allah ha cappato, ha cappato. Tu, se vuoi a dire qualcosa a un musulmano, a insultare il loro Dio, se quello ti toglie il coltello, ti fa a pezzi, quelli sono matti, sono. E quindi come siamo finiti a parlare del 5G? Ah, parlando di schede telefoniche, sì. Comunque già, costi troppo alti per essere degli operatori virtuali alternativi ai veri operatori, hanno lasciato troppi prezzi, quindi lo scopo non vale più la candela. KK, guarda, se vi trattenete vado a mangiarmi veloce un paio di pomodori e poi ritorno, ok? Prova già, io piano piano sto perdendo quota, è l'ora giusta. Comunque lascio tutto acceso, dai. Ok? Se non mi sentite vuol dire che ho optato per la TV. Sono crollato e ho optato per la TV, ok? Anche Antonello. Vai, mangia qualcosa, dai. E tu Antonello, novità? Sì, novità. Vabbè, è stato 3 giorni a cui sono stato. Andavo a letto, avevo l'acqua. Andavo direttamente a posto di pisciare col pisello, pisciavo col culo. Guarda, ho sentito più la radio AM su di te che tu, lo sai. In propagazione, sì, allucinantemi. Ecco, la stavi davanti, non sei usato, per ascoltare la radio. Il solito, il 3009 omologato. Ci ho detto, probabilmente troppi metri di antenna fanno di cavo, fanno proprio d'antenna per quelle frequenze basse, e qualcosa me lo portano dentro. Non credo nemmeno che sia il baracchino, perché me lo facevo anche col K, se capì? No, mi sembra strano a me, faccio una cosa del genere, a me non me l'ha mai fatto. Solo i 23 canali facevano una cosa del genere, gli altri apparecchi, grazie a Dio, non isolavano a sentire in armonica le onde medie, capito? O le onde corte, tutto lì. Pagava. Lo so, però Antonio, io ho 50 metri di cavo, magari fanno da, non lo so, risuoneranno su quelle frequenze, non lo so, qualcosa entra comunque. Oggi poi in particolare c'era propagazione, quindi figurati. Sì, su questo già ho sentito, ci sono tedeschi, sul 3 c'è il ponte radio, c'è un ponte di ripetizione del pappagallo, tu parli ti ripete la parola tutta intera, parlavo da solo, stavo vendendo banale, calciuffi, eccetera, eccetera. Dove c'era sul 5, 3 mesi fa, si è spostato sul 3 adesso. Prima sul 5, poi sul 6, adesso sul canale 3 in effetti. Deve essere roba dell'Ucraina, roba del genere, lo prendo in pieno. Segnale 9, 9, 10 arriva qua, figurati. così ne approfitto per andare in bagno, Antonè, e stacco. Dai, che ci sono già da un po'. Stacco un po', dai. Lo lascio acceso, poi se ne abbiamo voglia rientriamo dopo. Se no ritieniti salutato, ok? Sì, d'accordo, d'accordo, d'accordo. A dopo, all'inizio, se no ci sentiamo domani. Stavi bene, buon tutto, buon tutto. E io, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.